se tu che asciughi quella lacrima. Aspettami, ma che il tempo passerà, un anno, non un secolo, tornerò, com'è difficile restare senza te. Aspettami.